L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Nei negozi non sono gentili, non mi va. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Donna vuol dire shopping, verità o stereotipo? Di certo l'economia ci crede. Ben ritrovati da Anna Migliorati, domani sarà l'8 marzo e allora lasciamo da parte per un po' i temi legati al coronavirus per parlare anche noi di donne. Lo sapevate che per le donne, oltre ad un gap di stipendio, esiste anche un gap nel carrello degli acquisti? Vale a dire che quando un prodotto è rosa, quando è pensato per una donna, costa di più. Non è solo leggenda, è un diktat del mercato che ha anche un nome, si chiama Pink Tax, tassa rosa. Saluto Marcella Corsi, docente di economia alla Sapienza di Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. La discriminazione verso le donne è possibile che passi già anche attraverso i meccanismi del mercato economico. Cos'è la Pink Tax? È un meccanismo molto semplice, di cui nessuno di noi probabilmente ha piena consapevolezza, ma che ci colpisce in modo probabilmente indiscriminato e discriminatorio allo stesso tempo. Vuol dire semplicemente che una parte della popolazione, una parte dei consumatori viene tassata attraverso aumenti di prezzo che sono del tutto ingiustificati sulla base delle caratteristiche del prodotto. Il che vuol dire, ad esempio, che i profumi diretti alle donne costano di più dei profumi diretti agli uomini, o che determinati articoli differenziati soltanto per il packaging, un esempio qualsiasi, il rasoio in rosa o in blu, hanno prezzi diversi. Ma tecnicamente sono lo stesso prodotto, è giusto? Cioè paghiamo il colore rosa, il fatto che ci dicano che è per le donne? Sì, guardi, l'esempio delle scarpe da ginnastica è calzante anche per l'esempio opposto, cioè si è dimostrato attraverso indagini di mercato che le scarpe da ginnastica costano di più per gli uomini che per le donne, ad esempio, eppure sono sempre le stesse. Almeno su una cosa risparmiamo noi, ma tutto questo avviene veramente nel momento in cui si decide il prezzo di un oggetto, se è destinato ad un uomo o ad una donna? Assolutamente sì, sono strategie di marketing che corrispondono a tipizzazioni del cliente. Cioè si sostiene o si immagina attraverso a volte anche degli studi di mercato, insomma non sono ovviamente scelte campate in aria, che alcuni soggetti siano disposti a pagare di più per avere un determinato prodotto e ovviamente ci si approfitta di questa tipizzazione per poter aumentare il prezzo. Sono scelte strategiche. Quindi se io produco una cosa per una donna so che potrò farla pagare qualcosina in più che se la produco per un uomo. Ma è ancora così vero? Le donne sono davvero disposte a spendere di più perché amano di più lo shopping o perché o per quale motivo? Ma in realtà non è più così. Infatti questo è un modello di stereotipo di consumatrice anni 50, quello che vediamo spesso, non so, negli sceneggiati ambientati negli anni 50 negli Stati Uniti con le signore bene che vanno in giro a fare shopping, no, è uno stereotipo che oramai non si applica più a gran parte delle nostre vite, però ovviamente spesso non ci sono margini di libertà nello scegliere un prodotto, oppure bisogna essere consumatrici o consumatori molto attenti. Ad esempio io non avrei difficoltà ad utilizzare il rasoio marchiato in blu, ma se pensa ad esempio a determinate tipologie di prodotte, parliamo ad esempio della tampon tax, quindi degli assorbenti femminili, beh lì la possibilità di scappare dalla pink tax è molto più difficile. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Grazie, allora abbiamo capito cos'è la pink tax. Ma quanto ci costa? Andiamo a vederlo in concreto questo carrello in rosa. Antonio Pilello di Idealo, un sito di comparazione prezzi. Buongiorno. Facciamo conto di voler andare a comprare ad esempio una felpa o una maglietta. Se sono un uomo, se sono una donna, cosa mi cambia in concreto? Nel caso dell'abbigliamento Le più svantaggiate sono purtroppo le donne. Abbiamo analizzato i prezzi medi nell'arco di un anno, prezzi giornalieri, per le felpe, per le maglie del 4% più. E quindi in generale per l'abbigliamento le donne sono leggermente svantaggiate. E in media il costo per le donne si aggira intorno al 3-5% in più. Facciamo un altro esempio, un profumo sì. O un deodorante assimilabile, quindi che come diciamo così costo di produzione ha lo stesso costo, se sono un uomo, se sono una donna, cosa mi cambia? Cambia parecchio, in questo caso la percentuale è più alta. Il caso classico della Pintax è quello dei profumi. Abbiamo analizzato 27 profumi con variante maschile e femminile a parità di prodotto, quindi il costo per le donne si è rivelato essere più alto del 27%. Diciamo sarebbero 12,30 centesimi per ogni millilitro di prodotto. Io spendo 12 euro in più se voglio un profumo da donna, anche se ha gli stessi componenti. Esatto, sì, proprio a parità di prodotto abbiamo analizzato il costo per millilitro di questi 27 profumi e in 20 casi su 27 il costo è stato più elevato per le donne. Lo stesso si ha per i deodoranti o i trattamenti viso, in questo caso il costo in media è più alto per le donne del 50-55%. C'è anche una Blue Tax che però è per un numero ridotto. Di oggetti, cioè ci sono meno cose che costano di più per gli uomini, però ci sono, per esempio? Sì, ci sono, il caso più interessante è quello delle scarpe sportive, in questo caso gli uomini hanno pagato nel corso del 2019 l'11% di più in media e anche per i prodotti per la cura del corpo, per esempio bagnoschiuma, shampoo, balsamo, abbiamo evidenziato un costo maggiore per gli uomini intorno al 25-30%. Ecco, questo è curioso, le donne pagano di più il profumo, gli uomini pagano di più lo shampoo e il balsamo? Sì, parliamo appunto di fluttuazioni. Nel caso delle donne le fluttuazioni dei prezzi mediamente sono anche del 50%, nel caso dell'uomo del 30-33%. Quindi le donne hanno anche più sconti degli uomini però dall'altra parte? Esatto, sì. Se le donne, diciamo, le utenti riescono a comprare nel giorno giusto, chiaramente lo sconto per le donne sarà più ampio rispetto a quello per l'uomo. Abbiamo notato anche che molti utenti tendono a comprare prodotti unisex, dove chiaramente non c'è un effetto di questa Pink o Blue Tax. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Oggetti unisex per risparmiare, certo, non sempre si può, o forse le nuove generazioni sono più disposte a farlo. Piccole cose crescono. Marco, è il mercato bellezza, potremmo parafrasare in qualche modo. Se una cosa vende con quel prezzo, il prezzo è giusto o no? Il tema della Pintax è il tema della discriminazione di prezzo per genere. Cioè io, discriminazione di prezzo vuol dire quando vendo lo stesso prodotto a un prezzo diverso a categorie di consumatori diverso. Il nostro mondo è pieno di discriminazione di prezzo. Per esempio, quando io al cinema faccio gli sconti per anziani e per studenti, sto facendo discriminazione di prezzo per delle persone sulla base dell'età sostanzialmente o della condizione professionale. Sono una discriminazione di prezzo. I biglietti aerei sono una discriminazione di prezzo sulla base del momento dell'acquisto. I libri hanno discriminazione di prezzo sulla base e i film sulla base del momento di pubblicazione. Più sono distante dal primo lancio, più il prezzo diminuisce. Del resto, non siamo abituati a pensare il prezzo dei cinema come un aumento di prezzo per i consumatori normali. Siamo abituati a pensare che anziani e ragazzi hanno uno sconto, ma è la stessa cosa. Dopodiché, nel caso delle donne e degli uomini, ci sono categorie di prodotti che costano un po' più per l'uno che per l'altro. Allora, il problema è che in quasi tutti i casi i prezzi sono fatti sulla base dei costi di produzione, ma non solo sulla base dei costi di produzione. Cioè, quando si decide un certo oggetto, quanto lo vendiamo, non c'è solo quanto mi costa produrlo. Assolutamente no. Io penso sempre a quanto i consumatori sono disposti a pagare. Una prima ragione di base è quella della dimensione della domanda. Se io ho lo stesso prodotto che vendo in un caso a un segmento che ha quindi una disponibilità a pagare per quantità un po' più alta, quella categoria facilmente lo pagherà un po' di più. E al contrario, quando vendo un prodotto a una categoria che ha poca disponibilità a pagare, so che o glielo vendo meno caro o non glielo venderò. E quindi spesso glielo vendo meno caro. Ma allora è ancora uno stereotipo che le donne comprano di più? In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Ecco, la ragione che abbiamo detto prima non è l'unica. In altri casi io faccio un prezzo più basso alla categoria che ha più tempo, più voglia e più capacità di fare ricerca per un prezzo più più basso. O che siamo più bravi a fare shopping. Se uno è più bravo a fare shopping, paga di meno normalmente e guadagna una rendita informativa. Chi invece arriva e non ha tempo e non ha voglia, facilmente lo paga un po' di più. Ma se il fatto di non aver tempo e non aver voglia è collegato al fatto che non ritiene quel prodotto così indispensabile, finisce che glielo vendo meno caro, perché se glielo vendo troppo caro si sposta su un altro prodotto. Quindi è un gioco continuo di messa a punto. Anche negli esempi che abbiamo fatto si possono ricostruire quelle motivazioni. Probabilmente sui profumi che costano di più per le donne mi aspetto che questo sia collegato al fatto che per le donne il mercato è un po' più ampio, anche se è cresciuto molto il mercato degli uomini. Così al contrario succede per le scarpe da ginnastica. Le oscillazioni di prezzo per le donne sono più ampie e questo è sicuramente collegato all'abitudine, alla capacità e al tempo impiegato per fare shopping, che nonostante la partecipazione al mercato del lavoro è ancora più alta per le donne. Grazie, allora alla prossima settimana. Grazie a voi, arrivederci. Posso aiutarla? No, grazie. Salve. Salve. Si ricorda di me? No, mi scusi. Io sono stata qui ieri, mi ha detto di andarmi. Oh, lavora a percentuale? Sì. Bello sbaglio. Bello. Enorme. Ho altro shopping da fare. E noi vi salutiamo qui in regia Valeria Bernardi, una puntata in rosa, ma ci ritroviamo alla prossima. Un saluto da Anna Migliorati, www.radio24.it, l'economia delle piccole cose per i nostri podcast, per scriverci idee, commenti, i vostri suggerimenti.